Semplicemente. Semplicemente. Eh sì, semplicemente. Buon pomeriggio e bentrovati. Siete in diretta su CRM Più Radio, naturalmente, all'interno di Semplicemente Insieme, insieme a Jerry. Come va? State bene? E allora vi ricordo subito i numeri per le vostre richieste, il 335-5637-251, lo 0921-923292, oppure su Facebook, oppure sul sito www.crm.epiradio.it. Allora, pronti per cominciare? Cominciamo subito con la bella musica! Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che del terrore abbiamo fatto amore, noi due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? Passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre stento. Perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo. Dimmi dove sei, se vivi un'altra storia, qua con voi, semplicemente insieme, insieme a Jerry. Oh, che belle, spuntate il sole, poco fa pioveva, adesso c'è il sole, meno male, già sto meglio, mi sento meglio. E allora noi continuiamo sempre con la bella musica, spero di tenervi sempre tanta compagnia, e andiamo avanti con David Guetta, Without You, senza te. I can't win, I can't rain, I will never this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you. estranged without you. Senza te, senza di te, senza di voi, io come farei? E voi senza di me come fareste? Boh, non lo so. Boh, fatemelo sapere sempre qui. E noi andiamo avanti con Giorgia, il mio giorno migliore. Viaggerò fino al mare, passando dal sole, tu mi vedrai. Vengo a prenderti. Quanto costa l'amore nel telegiornale, non crederci. Vengo a prenderti. Quanto il mio giorno migliore. A proposito della fantastica Giorgia, dopo Roma ha messo a segno il sold out a Mediolanum Forum di Assago Milano. Palco essenziale, giochi con fasci di luce, laser, voce e tanta voce. 2 ore di concerto, 23 brani in scaletta, 8 dall'ultimo CD Dietro le apparenze e un omaggio a Lady Gaga con il brano Born This Way. A Roma eravamo tesi, spiega la cantante, ma a Milano ci siamo sciolti. Standing ovation per E Poi, di sole e di azzurro, per Come Saprei e per Naturalmente l'amore che conta e tutte le canzoni del nuovo singolo di Giorgia. Bene, quindi poi ci saranno naturalmente a marzo le nuove date nei palazzetti, quindi non vediamo l'ora di ascoltarla nuovamente, questa straordinaria cantante con una voce veramente eccezionale. Poi a me piace tantissimo, quindi non vedo l'ora. E noi continuiamo sempre con la bella musica e adesso chi c'è? Beyoncé. Bring the beat in. You're the only one I see. la faccio con te. Ah, non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere il flash. Ah, so che non vedi l'ora di... Come la vuoi, tu dimmi come la vuoi, vuoi, vuoi. Dimmi come mi devo mettere, poi che cosa vuoi. Dimmi tu che cosa vuoi, vuoi, vuoi. Anche se a volte non puoi scegliere. Click, mi chiedi se la faccio con te. Ah, non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere il flash. Ah, so che non vedi l'ora di... La foto insieme a Mr. NTTX. Vuoi fare fuoco come nel mio videoclip. E nuovo nuovo come quando esci fresco dal negozio con la T-Unit e shit. Click. Tu vuoi la foto insieme a Mr. NTTX. Quello è il tuo scopo e per questo che vieni qui. Se stai qui sotto riempio tutti i giga della tua scheda SD. Come la vuoi, tu dimmi come la vuoi, vuoi, vuoi. Dimmi come mi devo mettere, poi che cosa vuoi. Dimmi tu che cosa vuoi, vuoi, vuoi. Anche se a volte non puoi scegliere. La faccio con te, ah, non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere flash, ah, so che non vedi l'ora di... Vuoi prendermi, vorresti farmi un po' di tutto, tutto, l'immagine nei magazzini sopra il tuo book, sul tuo book. Se vuoi sentirmi il pezzo mio sta su YouTube e schiacci play, poi condividi su Facebook, vuole original, compra solo su iTunes, se vuole scaricarmi dal server di Emule, vuole fare boom boom boom, se lì ti vedo ad inquadrarmi con lo zoom zoom. La faccio con te, ah, non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere flash, ah, so che non vedi l'ora di... Come la vuoi, tu dimmi come la vuoi, vuoi, vuoi. Dimmi come mi devo mettere, poi che cosa vuoi. Dimmi tu che cosa vuoi, vuoi, vuoi. Anche se a volte non puoi scegliere. X, tu già lo sai, io ce l'ho il fattore X. Creo la mia vita come un avatar di Sims. E sto disegnando il mio nome scritto in verde, ma non sono di Greenpeace. Tu già lo sai, io vado fuori per la weed e per i ritmi giamaicani. Oh na na na. E come mai non puoi più fare a meno di tirare sulle mani. Oh girl. Click, mi chiedi se la faccio con te, ah, non preoccuparti baby se vuoi fare click, ricordati di mettere flash, ah, so che non vedi l'ora di... Come la vuoi, tu dimmi come la vuoi, vuoi, vuoi. Dimmi come mi devo mettere, poi che cosa vuoi. Dimmi tu che cosa vuoi, vuoi. E sono sempre qui con voi, siete all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry. Adesso passo ad accontentare un amico, Francesco, che saluto, che ha fatto la sua richiesta tramite il sito www.crmpradio.it. Mi raccomando, fatelo anche voi, mandatemi un sms al 335-5637-251, allo 0921-92-32-92. Allora Francesco, Arctic Monkeys, Mardi Boom. Now that Mardi Boom, I see your frown and it's like looking down the barrel of a gun. And it goes on. How come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you. A side I much prefer is one that laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. It was up, up and away. Oh, but it's right hard to remember that. It's on a day like today when and you've got the face on. Well, now then, Mardi Boom, oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there and pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear, can't we? To get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. To get things off the ground, and it was up, up, out of. on a day like today when you're old. Arctic Monkey, Marty Boom. Questa è la richiesta da parte di Francesco, che saluto. Ciao Francesco. E noi andiamo avanti, sempre con la bella musica, sempre qui in diretta su CRM, in compagnia di Jerry. Laura Pausini, benvenuto. Benvenuto a tutti quanti voi, qui insieme a me. A te che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che Pausini, la fantastica voce di Laura Pausina. E siete sempre qui, naturalmente con Semplicemente Insieme, insieme a Jerry. Vi ricordo i numeri di telefono per le vostre richieste, per le vostre dediche. Se avete qualcosa da dire a qualcuno e non avete il coraggio e lo volete fare tramite la mia voce, beh, potete farlo al 335-5637-251, allo 0921-92-32-92, su Facebook oppure direttamente sul sito www.crmpradio.it. Adesso passo ad accontentare Maria con Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. It's still enough time to figure out how to chase my blues away. I've gone all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, loneliness falls. Jackson, Wanna Dance With Somebody. Questa è la richiesta da parte di Maria, che naturalmente saluto. Siamo andati un po' indietro nel tempo, e sì, però ci vuole, ogni tanto ci vuole. A proposito della bellissima Whitney Houston, è tutto pronto per il suo ritorno al cinema dopo 16 anni di assenza. Pensate un po', arriverà nelle sale americane il remake del film del 1976, Sparkle. In rete circola già la prima immagine promozionale che vede la cantante in gran forma a fianco della coprotagonista Jordyn Sparkle, vincitrice di American Idol nel 2007. La pellicola è ispirata alla vera storia delle Supremes e alla difficile ascesa del gruppo vocale femminile di Harlem fino al successo. L'ultimo film della Houston risale al 1996 con Uno sguardo dal cielo, The Preacher's Wife. Bene, quindi non vedremo, vediamo l'ora di vederla nuovamente tornare in scena. E noi continuiamo sempre con la bella musica. Con gli amici è un tratto tu, se tu spiegami perché, da quando ho incontrato te tutto è diverso, non volevo più restare a pensare alla mia vita, non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita e adesso guardami. Tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare invano, mi allontano dalle stelle e adesso guardami. Scream For the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rock on. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you smile. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you'll see. Ed eccomi tornata, sempre qui in diretta all'interno di Semplicemente Insieme in compagnia di Jerry. Continuiamo con le richieste e vado ad accontentare Paola con Gianna Nannini. Perfetto! Non me ne andrò da te stasera, sei la mia catena, resto qui in galera. Ho fatto un patto col tuo cuore, chi si lascia muore, ma non è mai detto. Siamo questo adesso, un inferno rosso. Giri attorno come un cane che ha soltanto paura. perfetto, Gianna Nannini, la richiesta da parte di Paola, che naturalmente saluto. Inoltre saluto anche Enzo e Rambo, che in questo momento ci stanno ascoltando, sono al lavoro, quindi vi auguro buon lavoro. Mi raccomando, state sempre sintonizzati su 101.4 su CRM Happy Radio. Just for emphasis, and I don't sympathize, cause you a simple dimple. I just pop up on these houses on some pebble chapel and put the eye into your face, y'all wrinkle, wrinkle. Shh. This is mega, mega, ultra, enigmatic. Check it out, bella questa, vi piace, bella carina, divertente. Naturalmente siete sempre in compagnia di Jerry. A proposito di Nicki, questa rapper americana si trasforma per il video del suo ultimo singolo Stupid Hope, ha tratto ispirazione dal mondo dei giocattoli. Occhioni a mandorle e capelli rosa, la cantante sfoggia un perfetto brat style, la linea di fashion doll popolarissima per le ragazzine. Un ritorno all'infanzia dunque, anche se la Minaj non rinuncia alla giusta dose di sensualità e provocazione, con un make-up colorato e psichedelico. Nel video Nicki cambia continuamente look, truccando i suoi enormi occhi ottenuti grazie ad un effetto digitale. con ombretti dalle tinte forti che spaziano dall'azzurro al giallo, senza dimenticare il rosa, il suo colore preferito. Non posso immaginarmi senza lipstick rosa, ammesso la rapper. Posso rinunciarci per un paio di giorni, ma se non esistesse mi sentirei inutile. Hai capito? Stupid O è il secondo singolo tratto dall'album Pink Friday, Roman Reloaded. Il disco sarebbe dovuto uscire il 14 febbraio, ma la data è poi slittata ai primi di aprile. Non abbiate paura, dice la cantante, su Twitter ci saranno tonnellate di novità prima di allora. Ci crediamo. Intanto volevo ricordarvi che sono aperte le selezioni per il secondo corso di formazione radiofonica, naturalmente organizzato da CRMP Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Quindi inviate il vostro curriculum a formazione@crmepiradio.it. Vi ricordo che il corso è gratuito e durerà 4 settimane. Alla fine delle 4 settimane verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Uomini sempre più ansiosi sull'orlo di una crisi, con nuove nevrosi sogniamo dell'arrivo di donne stanotte in città. Donne motori, chi ci salverà? Siamo maschi contro femmine, siamo libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine. E poi facciamo l'amore, dimentichiamo che siamo fatti così. E dopo fatto l'amore ci rivestiamo, ti chiamo lunedì. Siamo maschi contro femmine ed è un'eterna disputa senza nessuna regola, come una guerra atomica. Uomini sempre noiosi in cerca di una sfida che non ha mai fine, per inseguire la donna dei sogni che poi svanirà, la fata turchina che ci salverà. Siamo maschi senza femmine, siamo foglie senza alberi, Sansone senza Dalila, una tristezza cosmica. Ma se troviamo l'amore, dimentichiamo che siamo fatti così. E quando arriva la notte ci spaventiamo, dai stringi. Esseri così fragili, l'amore senza regole e non ci sono limiti. Così facciamo l'amore, ce ne freghiamo che il mondo va così. E dopo fatto l'amore ricominciamo. Senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine. Come and give it to me, 'cause I could tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah, so come on, let's move through the crowd so we can find ourselves some privacy. And when I get you all to myself, I promise it's gonna be hard to breathe when you watch me. Shake, wind and roll, let's lose control. Shake, seen a beautiful ghost. She must have been a sight to see. And she got your mouth wide open, you sweating like 100 degrees. But it's not a ghost, your body can't handle you watching me. And one more move, I'ma make you drop to your knees. Tenervi compagnia. Stavo leggendo una notizia che arriva dal Giappone. Pensate un po' che un rivoluzionario pneumatico senza aria potrebbe porre fine al problema delle forature a pericolosi scoppi ad alta velocità. La Bridgestone, il più grande produttore al mondo, afferma che il suo nuovo prototipo non si afflosserà mai e inoltre il pneumatico è costituito da una resina plastica che può essere riciclato ed è quindi una cosa in più per l'ambiente. Beh, tutte queste notizie un po' così arrivano dal Giappone, questa grande nazione con questa gomma indistruttibile. Ma chissà, in effetti per l'ambiente è una cosa positiva, devo dire sì. Vedo nero con i miei occhi, vedo nero e non c'è pace per me. Perdo il pelo, shot the monkey. Vedo nero e non capisco cos'è. Vedo solo se lo vede nero. Voi vedete nero, ma no, vero? No, bisogna vedere sempre tutto colorato. Sì, è certo. Così è, se no non si va avanti. Bisogna comunque sempre andare avanti e pensare positivo. E adesso vado ad accontentare Patrizia. Facciamo un po' un passo indietro con Frankie Goes to Hollywood. Relax. To Hollywood, relax. Questa è la richiesta da parte di Patrizia, che naturalmente saluto. Patrizia, ti sei rilassata con questa canzone? Beh, fammelo sapere, ti raccomando. Mandami un sms al 335-56-37251. Chiama in diretta, naturalmente rispondo io, allo 0921-92-32-92. Fammi sapere se ti sei rilassata, dai, t'aspetto. Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, Noi siamo i soliti, sempre così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi, senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare. Siamo liberi, liberi di non ritornare. Noi siamo i soliti, quelli così. My mama's calling, but I'm stalling. qui insieme a voi, siete sempre all'interno di Semplicemente Insieme, in compagnia naturalmente di Jerry. Adesso continuiamo con le vostre richieste, vado ad accontentare Marco con Elite Fiva, La mia valigia, questo è l'ultimo. La mia valigia, casa tracolla, due occhi, due orecchie, due ruote, due zeta, sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. Casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabili note e parole, rimedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Sui vetri del mare, del mare. Nascosti nel buio, nascosti nel caos, dentro di me, viaggiare e sognare è un atto d'amore. La mia valigia, Bello questo, questo è il nuovo singolo dei Litfiba che fa parte dell'album Grande Nazione. Dopo 13 anni dall'ultimo CD di inediti, ecco che ritornano nuovamente a tenerci compagnia con la loro bellissima musica. I brani sono un inno all'amore e ad un primo ascolto di questi primi brani inediti sembra che il tempo per loro non sia mai passato. Rock potente, dinamico e sembra di essere di nuovo catapultati negli anni 90, picco di successo del gruppo. Ecco che le mie paperelle ritornano a farvi compagnia perché ormai, io lo so, non ditemelo, vi siete affezionati ormai, questo ne sono più che sicura di questo. E andiamo avanti con la bella musica, passo ad accontentare Rambo ed Enzo con il Nickelback This Afternoon. Buon ascolto! Yeah. adesso con questa canzone saluto Rambo ed Enzo, che sono affezionatissimi, ci stanno ascoltando. Ciao ciao, buon lavoro. Allora, intanto vi ricordo che sono aperte le selezioni fino al 18 febbraio per il secondo corso di formazione radiofonica, organizzato naturalmente da CRM con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso avrà una durata di 4 settimane e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è totalmente gratuito. Quindi se siete interessati, se avete questa passione per la musica, per la radio, beh, fate come me, inviate il vostro curriculum a formazione@crmhappyradio.it e in bocca al lupo a tutti quanti voi. Chissà, magari ci ritroveremo assieme a fare qualcosina, qualche programma insieme. Boh, si vedrà. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurucucu, Eccoci qua, adesso mi sa che dobbiamo salutarci, sì sì, questa era proprio l'ultima canzone e dobbiamo salutarci, vi ricordo l'appuntamento con me venerdì, sì, sempre intorno alle 15 sino alle 17 circa e niente, vi auguro una buona serata, fate bravi come al solito, mi raccomando e noi ci vediamo venerdì, anzi ci vediamo, ci risentiamo venerdì, baci, alla prossima, ciao ciao! Semplicemente